attenzione Gianni, doppio room, Gianni, attenzione doppio room se ci sei fatti un colpo, e sono Marco, ciao, è forte, è chiaro, a colori, bellissimo, biondo, alto, con gli occhi azzurri, arretrato, molto bene, vieni bene dai, come immagine, è così, è così ti ricevo, chi sei? Lui in persona. Oh, ciao, Anto. Allora, quando scala arrivi? No, non è che c'è molta strada. Dimmi una cosa, ma com'è questa modulazione di questo apparato? Ok. Non è troppo amplificata, no? Ho capito, allora, poi noi siamo anche troppo vicini. Ho sentito, mi sembrava che poco fa avesse chiamato Gianni, doppio room, ma evidentemente no. Ma tu hai fatto un paio di bussate. Devo dire, però non ho, con questa radio non ho mai, è la prima volta che vengo qua su canale 10, capito? Non ho parametri. È un pochino troppo carica, lo è, ma siamo anche molto vicini, capito? Siamo anche molto vicini, ci vorrebbe qualcuno un po' più lontano per poter darci delle indicazioni precise, sia per la mia che per la tua. Noi mi sa che non facciamo test, abbiamo bisogno di qualcuno un po' più in là per vedere come ci riceve. Qua sei ovviamente, sei con lo scala incollato, perciò un pochino gonfia, allora è come missione. Ci vorrebbe qualcuno un po' lontano, ma anch'io potrei diminuire un po', sono 5 watt, posso diminuire così è il massimo da diminuzione, così sono proprio, vediamo, così sono un watt, aspetta che ne devo mettere gli altri occhiali, senza gli altri occhiali che non ci vedo qua, anche che, hola, vediamo, un watt dovrebbe essere, sì, dovrebbe essere un watt, picchi negativi oppure come emissione. Che cosa hai fatto? Ma adesso è un po' satura, non so se hai aumentato il guadagno del microfono oppure se hai fatto qualcos'altro, ma adesso è un pochino troppo gonfia come emissione, è decisamente poco piacevole, sembra che stia saturando, peggiorato, sta peggiorando addirittura, una radio invernale, è una radio male, ma non, è proprio così, ho provato mille modi, abbasso, adesso vedi ho messo il kit, il pre esterno, ho provato mille modi, non c'è verso, proprio non va, abbassa, togli, diminuisce, aumenta, nulla da fare, no. E invece qua, come l'ho attaccato, già ho visto che qualsiasi livello di metti di preamplificazione di mic gain, perché questo non c'è manco processore, niente, c'è solo mic gain, e funziona bene, perché dalla studio che ho fatto il risultato mi sembra buono, tu, no? Sì, c'è qualcuno che chiama, avanti con la buonasera. Sì, ciao, sono Marco Scorpion, ciao. Non è più fanno scala a mano, dove ti trovi? Ciao, buonasera. Tipica di sembra tipo un 48 truccato, testata abbassata, marmita super sprint e cose varie. Vabbè, ovviamente c'è anche l'effetto eco conto e Smith & Wesson anche. Avanti Antonio, ma non lo senti a mano, fanno scala arriva qua. Pensa un po'. Guarda, questo bello radio è bellissimo, ci piace un sacco di cose da vedere, da giocare, cambiare, commutare, accendere, spegnere, girare, attaccare. Però c'è l'indica che bisogna stare molto spesso sul tetto. Vabbè, quello di qui della 3x9 è un po' meno, basta che uno c'ha un impianto, una volta l'hai fatto, e dura, ma poi per il resto, invece se devi fare un altro, devi fare un po' di attività laboratoriale, sì, costantemente a salire e scendere, a rompere tegole. Va bene, sono le 3:30 quasi, le aziende riprendono a lavorare e mi spacco, vado al lavoro. Ci sentiamo a tornare dentro stasera, più tardi, così voglio continuare a vedere un po', a fare qualche altra prova qui con questo giocattolino, a vedere come va. Cioè, l'impianto funziona bene, va alla grande lì con la radio. Ti manca l'effetto elicottero, attenzione però, attenzione, ma discorso. Va bene, allora la tema l'ascolto il tuo passaggio e tu l'ascolto tanto e tu hai stato ancora 7 minuti. Ormai una persona su in cima, quello che da 40 anni, ma forse quasi 50, loro al monte, su in cima al monte. Tu devi fare un po' di autoconvinzione e decidersi a fare arrampicarsi o a fare il gatto un po', per mettere due tasselli, non so se ci sono, per fare qualcosa. Diceva quella, non mi sente che il segnale c'è, ma le condizioni dell'antenna sono quelle che sono, altro che cosa stai usando? Ho capito, sì, la conosco, quella che vendevano molto bene, soprattutto per i camperisti, per attività così un po' importabile, confermo. Obrecco. Così, sì, Ricca, adesso ti faccio venire avanti. Sicuramente, guarda, dagli un'occhiata, contro la stazionare che non ti crei problemi lì al Lincoln. Va bene, allora faccio entrare Riccardo, vi saluto, ormai è ora di spegnere, di mettersi a lavorare, vai. Avanti Riccardo, ciao, buonasera, Marco Scorpiano qua, non so se hai sentito, c'è Mano, la Pedolce e Antonio Riserva qui a pochi passi da casa nostra. Ciao Marco, ciao Emanuele ed Antonio, saluto a tutti, sono entrato per una regolazione che dovevo regolarlo perché mi hanno detto che avevo una radio un po' bassa e volevo alzare un po', se no potevo distorcere, quindi volevo sapere se qualcuno mi poteva aiutare con una regolazione. Guarda, per me va bene, si è amplificato, chiaro, la voce tua, insomma, così come ti ho sentito in verticale, mi sembra che stia andando molto bene. Devo scappare, allora, ti lascio in compagnia di Antonio e di Manuel. Noi ci sentiamo stasera che continua a fare qualche prova con questo piccolo vicetrasmettitore. Ciao Riccardo, ciao Manuel, ciao Antonio, buon presidente, buona serata, un saluto a tutti, un abbraccio a chiunque in ascolto. Marco Scorca, uomo del monte, QRT, ciao, riprendi anche tu, fa girare. Grazie, saluto a Marco, ciao Marco, va bene. La prima volta che ti ho sentito da questa parte, di solito so che stai in ascolto ma non entri, comunque mi fa piacere di averti ascoltato anche qui. Va bene, se mi dici che sta andando bene vi ringrazio, sono entrato proprio per poco, scusate se ho disturbato il QSO. Ci sei ancora? Ok, vi saluto, come ho detto, scusate, ci sentiamo più tardi, qua c'è un bel caldo, non si può stare, più tardi che rinfresca. Oh, sono dentro la mia postazione, ma praticamente c'è un caldo da morire, meglio mi butto in piscina. Chi è? Ciao. Ci voci. Tu la radio buona ce l'hai, dammi là. Detto che la radio buona ce l'hai adesso. E di dare l'apparato a chi sei tu. Metti l'antenna e l'apparato lo dai a chi sei tu. Oia! Ci sta giusto. Ascolta, me lo misuri, ce l'hai un metro. Per misurarlo. E via. Dimmi una cosa, ma la palma velenosa? Cosa? Ho detto se la palma. palma, è velenosa. La puntura, sì, la puntura ti fa gonfiare la parte, non è che sia velenosa, ma è irritante, boh. Infatti mi ha lasciato la bolla. È maledetta la palma, lo so, fa anche un bel male. Ehi, stamattina è stata a fare un po' di lumache, dai, un po' di lumachine. Trovato, io ho una ciocca appesa, sabato me la mangio, anche se l'ho fatta nel secco. Me la mangio sabato, dai. Oh, lumacconi, lumache grosse e lumachine. Io ho solo lumache grosse e lumacconi. Qualche lumaccone, non tanti, tre o quattro, dai, lumacconi. Tanto sono tutte lumache grosse. No, lumacconi ne ho un centinaio. E tanto a me non mi piacciono. L'unica roba che mi piace è la gioca grossa fatta con sughetto piccante, boh. No, lumacconi non mi piace, diciamo col sapore di selvatico che non mi piace. Vabbè, io mangio quelli piccoli, quelli grossi manco a me piacciono, no. E con tutto, Luca, con tutto che praticamente io li tolgo tutto il mucio, due, tre volte li metto il sale, li pulisco, poi li rimetto, li ripulisco, li rimetto, li faccio togliere tutto il buco che c'ha. Beh, normale. No, che una volta li ho mangiati al mare, me li hanno offerti di lui. Guarda, l'ho mangiato da solo, per poco non mi veniva a buttare. Allora, me lo ricorderò sempre, la mamma di un amico mio, li ha fatti, li ha portati al mare, me li ha offerto un po', non ce li ho fatti a mangiarli. No, io faccio quelli piccolini già, capito? Quelli sono più buoni, quelli grossi no. Metto il sale come faccio, come fai tu, lo faccio spurgare bene dalla balfa e poi li bullisco bene bene, poi condimento, magari di so. Mentre se preferisco più le lumache grosse. Infatti le prime che ho fatto sono belle, belle, belle, ce ne sono molte, molte vecchie, lumache vecchie, pesanti, belle, belle veramente. Sono più dolci con le... sono più dolci con le... Chi è che vuole entrare avanti? Avanti, chi vuoi che sia? Sono io. Aspetta, sono io. Oh, ciao, a me ne è stato questo baracchino. Gesuino, eh? Questo baracchino mi sta andando bene, sì? Sì, sì. Sì, io sì, anche tu, sì. Stanno bene, sì? Sì, sì. Vi ho detto. Già c'è di uno che dice tanti sì. Io ho sentito. Anni. Io lo chiamo signor sì. Uscendo, mi sentite? Sì, sì, Riccardino, ma se sto parlando non posso rispondere a te, caro. Io mi preoccupo che se non esce questa radio, mi scendono già le lacrime, sto andando già a fare il funerale, capito? Ascolta, Riccardo, ce l'hai qualche radio da vendermi di quelle vintage, di quelle 23 canali? 23 canali, non lo so, devo vedere. No, sta scherzando, non te le voglio prendere, dai, se tu sei collezionista, anzi, ti è arrivata quella che ti ho fatto prendere io? No, non è arrivata, ma la spedita sabato, oggi è lunedì, arriverà a metà settimana. No, se la spedita sabato arriva martedì. Ti arriva domani o martedì della settimana prossima? No, domani, se la spedita sabato fa, sabato non lavorano. Lunedì, martedì, no, forse mercoledì ti arriva. Va bene, controllerò anche adesso con il tracking. Guarda la tracciabilità e lo sai subito. Quello è bello, quello è nuovo, cazzo. Se è nuovo dentro come nuovo fuori, poi c'è un microfono che mi piace, quello lì me lo dovresti dare quel microfono, mi piace di brutto. Cala, cala. Ciao Luca, comunque, ciao anche Gianni. Se c'è qualcun altro, perché ho sentito solo a voi. Riccardi mi ha detto che ce l'ha il proprietario, il microfono, ma non è riuscito a provarlo e ti mette quello lì che esce un bel bene adesso. Papa, è da provare adesso, ma non ho capito, ma i canali sono proprio da 0 a 16 giusti come in altri apparecchi oppure hanno messo dei quarti diversi? Questo non te lo so dire, Riccardi, ma il 10 ci dovrebbe essere in ogni caso, perché mi ero chiesto e mi ha detto che il 10 c'era. Ma va bene allora. Te lo compri questo malacchino da voi. Ti vendi il tuo. Ti vendi il tuo. Visto il tuo che stai dando. Capito già. Ecco, non vuoi, Riccardi, il mio? io. Mi piace quello che stai vendendo. Mi piace? È un po' così, non sono molto amante di dell'Alan 48. Ma quello esce bene. Quello che ci bombe forte, Riccardo. Quello è un bel apparato. Lo chiamo a Luca. Luca ce l'ha già. Ce l'ha già Lucrezia. Luca. Oh, becco. Ah, no, stavo provando perché questo microfono, Luca, lo senti l'eco adesso? Brecco, che sto uscendo, Brecco. Avanti, Brecco. Buonasera a tutta la ruota. Stavo solo una prova di controllo, dai, che l'ho appena chiuso. Che ho fatto un lavoretto su questo apparato. Volevo capire se è buono o se è da buttare. No, già va bene. Un po' bassi dalla radio e va già. Già si capisce. Ma troppo bassa, perché diciamo bassa, vabbè, è normale. Però è chiara la radio, quello mi interessa. Sì. C'è qualcuno, ho fatto un DX ieri, mi ha detto di salutarti dalla Calabria. Dalla Calabria, un paese della Calabria, non mi ricordo però come si chiamava. Se non mi metto più. Caporizzutto, da Caporizzutto sicuramente, è Roberto Crimina. E io Bolzano, papà. C'è anche la Caporizzutto, era proprio un paesino vicino a Calabria, era proprio quello lì il paese, non era Roberto Crimina, però Salvatore mi pare che si chiamasse. E Cavallo Pazzo, non lo so chi era. Salvatore. Allora è siciliano, non è che era siciliano? No, mi ha detto che era di quel paese lì che mi ha detto tu, Calabria. Ah, Ciccio allora, Ciccio che dovrebbe essere Salvatore, Ciccio Pappi. Sono simpatico, pur non lo so. È positivo, là. Ciao Lucarie, ciao anche Riccardino, vi ho sentito tutti e tre, dai, siete in tre mi pare, come siamo in quattro. Ah, mi ascolti, io usa. Ah, ma già ti ascolto, io non mi faccio una cosa. Devo l'antenna troppo bassa, cioè lo devo sollevare di più. Dai, l'ho scesa per ripararla, però non l'ho voluta sollevare ed è poco sollevata. Ah, infatti mi sono la segnale 7. Sì, ma sto uscendo con un baracchino di 4 watt, senza essere... Solamente ho cercato la radio di farla più chiara e basta, però sempre un baracchino degli anni 80, sempre vecchia razza, però con 4 watt, dai. Allora va bene, Gigi, perfetta. Ultima per la truppa, avanti Riccardino, cambia. Sì, Luca, per il mic, saluta Gigi, ciao Gigi Vulcano, ben ascoltato. Ciao Riccardino, ben ascoltato pure a te. Avanti, doppio rumore. Ah, lo stai vendendo il 48? Io sto vendendo questo. Non messo in vendita, perché mi devo comprare una stazione base adesso. Mi compro una stazione base, è bella. È positivo, dai, positivo. Ma quello c'è un... Ma quello è bello come baracchino, è anche... Vabbè, poi ce l'avevo io, tu l'hai tenuto bene, è sempre nuovo. Però c'è anche la regolazione dei vatti, quello davanti dai pomilli, ricordati che non l'hai messo nel coso, ve l'ho visto ieri. C'è anche la regolazione dei vatti, puoi aumentare e abbassarli, sta al pomello. Quale? No, non c'è la regolazione dei vatti. Sei sicuro? Non c'era quello, eppure ce l'avevano tutti. Guarda che ce l'hanno. Ma non mi pare che ce l'abbia la regolazione dei vatti, o già. E dove? Da una parte c'è la velocità dell'eco, dall'altra c'è l'amplificazione, poi c'è il mic gain, non c'è. E comunque esce con un watt e mezzo a picchi di 10-12 watt. Ah, c'è parlo, già lo c'era dentro, c'era all'interno, lo sai. Ce l'ha all'interno, questo ce l'ha all'interno, però non questo, un altro 48 che ho io sempre fatto da lui, perché io mi ricordo che, infatti ce l'ha all'esterno quello lì, tant'è già che poi glielo ho messo all'interno io, però però ce l'ha, mi sembra che ce l'ha ferma quello. Mamma la voce a bordo, dice Baracchino, ci attaccano le cazzate, digitando ho digitato male, cioè non è che digito male, a volte digiti e non ti escono le lettere, capito? Succede così, a volte mi capita, mi sta capitando spesso adesso, che digito, poi la ridigito e non esce lo stesso, non esce la lettera, insomma, e mi hanno criticato un pochissimo. Che gente che si trova, io le ho scritto, siamo qui per condividere la stessa passione, non per criticare le persone come scrivono. Ah, già ho capito quello, sì, che hai messo, già l'ho visto, è qualcuno, vabbè, già l'ho visto, l'ho visto. Ma tu, cazzo, pensi che sia una persona normale, una che fa che si attacca a queste cose? Boh, vabbè, magari non sa manco bambinare. Ciao Claudio, basso basso sì, come mai? Sta dicendo, sentiamo l'uovo e la radio è a bomboletta. Però è un po' mangiata dal lineare, ma già si sente, dai. Va bene Claudio, sono in compagnia di Riccardino, di Luca, di Gigi Vulcano e di Emanuele. Veloce che adesso ti mando avanti, Emanuele. Capara, ti saluta Emanuele Ginco dalla Tenoce, quando si metterà l'antenna si farà sentire da tutti. Per il momento dice che non ti ascolta, che da Ruginito. Avanti Riccardino. Ok, ciao Claudio, ben ascoltato, sì, adesso stai arrivando a bomboletta, meno male. Signor attenzione Muro, se tu ascolti Luca qua, rapa. Positivo, dai, segnale da parte mia, il tuo quasi 8, ma si saturo, Sì, molto compresso, K. Avanti Gianni Rovio Roma, K. Lo sento un po' così anche io, purtroppo il lineare quando lo metti a manettone fa quel difetto lì, se non è allineato bene, se è allineato non si sente nulla. Adesso io attacco l'altro baracchino perché così vi faccio girare, rilascio tutto quanto a Fabio, a Emanuele e poi ci penserà lui a far girare, dai Emanuele, avanti, c'è Gigi, c'è Luca, magari ti ascolta, Luca lo ascolta Emanuele, non credo. Io non l'ascolto Emanuele, ascolto a Claudio da Muro, ma Emanuele no. Emanuele prova a parlare, non sta parlando adesso, Emanuele, vediamo un po' se ti ascolta Gigi Vulcano, dai, salutalo a vedere se ti ascolta. Se sta parlando non lo sento. Eppure c'è un bel forte. La radio c'è un bel forte, c'è il garage modificato. Non so se è quello tuo. Lui c'ha il garage modificato, sei sicuro? Ma quello con la scritta ombrello? Non può essere. Non lo so oggi. Gliel'ha dato coso. Non è che te l'ha dato il garage. Ah, non è il tuo G, non è il tuo, perché è arrivata la furia. Sì, perché si è modificato così, dopo un paio di passaggi lo deve buttare via. Se non c'è l'antenna buona, se è modificato lo crepa immediatamente. Capito, Manuè. Se ha detto, ti conviene usarlo normale, perché se non hai antenna buona lo crepi subito, hai detto Gigi si è modificato. No, anche normale lo crepa, anche adoperandolo così, K, va bene, comunque va bene, dai. Io ti dormi a mirare quello, Gianni, te lo compro io. Non va un graffio, niente, poi Gigi già lo sa come tengo gli apparati io. Non vanno un graffio gli apparecchi miei. Gianni, te lo compri questo? No, Gigi, devo comprarmi una stazione base, ho deciso. Una bella stazione. stazione base. Ok, fuori fuori. Se me la prendo pure, se no lascio tutto così. Tanto se tutti ti la lampati. Bello, questo mi modifico il 3009, gappa. Invece l'altro lo lascio così come l'altro Typhoon che c'è la marina. Originale. Ma lascialo così il 3009 che esce bene così, basta modificarlo, boh. Tu cosa ne dici, Gio? Con Gigi? Non lo so, quello lo vede lui. Lo vede lui cosa vuole fare. Capisco, vede lui cosa vuole fare. Lui non lo so. Io, ripeto, io ne ho una marea di modificati e gioco ancora qualcosa, però gli ho dato via il Saturneco che era per me era spettacolare, capito? Poi me l'avevo tutto fatto a modo mio, quello era spettacolare, capito? E ho dato il Plutto che anche quello era bellino e niente. E poi modificati il 48 l'ho dato a te, a Barra Agricola ne avrò dato minimo 5 modificati, a Barra Agricola minimo gli ho dato 5. E non mi sono fatto più sentire, ma se li avrà tutti e 5, sì. Penso di sì. Ma Gigi, ma secondo te è troppo alta questa radio, la devo abbassare? No, già va bene, io comunque già mi sento basso, il culo mi va. No, già va bene. Perché posso fare così, questa maniera, oppure questa maniera, come vedi tu, capo? E questa come Gigi, questo che è un altro apparato che ha attaccato, prima c'è quel garage, adesso c'ho il 3009. Gigi, mi ascolti? Sì, non sapevo che stavi dicendo a me, capito, no, pensavo... Non avete poco di soppa. Copiato. Prova, Gigi, a vedere come mi ascolti. Non ho capito, cosa devo provare? A vedere come mi ascolti con questo, sto provando io. Cioè, prova a vedere come mi ascolti, ascoltare più che vedere. Tu mi hai detto prova a vedere come mi ascolti. No, già va bene, va benissimo già, va benissimo. Gigi, abbiamo la stessa radio. Com'è? Uguali sono. Con chi? Con Gianni, ho la radio uguale alla sua. Sono spiccicate, uguali identiche. Cioè, io ho le MB più 4 e lui ha le MB più 5, vai. Prova già, ma sono uguali. Perché lui c'ha i toni già giusti, capito? Io li devo regolare i toni per la voce. Ma vabbè. Sono tutti due modificati il MB più 5, Sì, ma il tuo è più, molto più chiaro del suo, il micro. Lo so, li ho avuti tutti e due, il più 4 e il più 5 li abbiamo modificati e se ricordo c'era quello del più 4 che faceva una radio spettacolare. Ma no, li ho avuti anch'io fatti così, me li modificavo pure io, e uscivano bene. Oh già, ma quello lì la LC l'hai aperta, no? Quale? Questo che c'è il 3009. No, era già aperto. Ah, perché se l'ha chiusa la preview uscivi la scappettata, PG. Ok. Troietto, questo è il tuo, l'MB più 5, che differenza c'è da quello di loro? Beh, sarà pure la radio, non lo so, sarà anche la radio che c'è sotto, però è più bello. La radio c'è sotto è del 1972, a differenza di quelli nuovi. E il microfono è quello tuo, l'MB più 5. Caparrocero. Tanto quella radio famosa che sembrava una radio professionale, bella quella, tanto quella pochi canali, quella non ce l'hai più, quella qualcuno l'avrei regalata, data. Ti ricordi che, ma non ricordo come l'avevi ordinata tu con la talmente stretta fa. Quella bella che usciva, quella piccola, così non toccai, che cavolo di che radio era, se non mi ricordo. Il Zodiac 5024, questo è il gemello, questo è il Polmar Gigi 7000. Quello là era celeste e questo è nero, uguale, preciso, identico, non cambia niente. E questo è il microfono che mi hai venduto tu, quello tutto modificato. Positivo, ma anche la radio lo fa andare bene di quei microfoni, perché dipende come la fini, dove la fini quei microfoni, hai capito? E questo è il Polmar 7000, Dick 7000, che è uguale al Zodiac 5024, questo ha qualcosa in più del Zodiac, che è quello che mi aveva dato Pinuccetto, ti ricordi? Questo è il gemello, c'ha qualche cosettina in più, ma è il gemello, diciamo, è sempre della stessa casa, so. Buonasera a tutti, dai. Va bene, Gigi, questo è il microfono che mi hai dato tu. Ok, e poi, se volete un controllo da me, se io vi sto ascoltando, sono entrato a salutarvi, se volete un controllo da me, o Luca, senza offesa, quello di Gianni spinge di più del tuo, ok? Ciao a tutti, ci sentiamo. Eh sì, Claudio, no, quello gliel'ho detto pure io, perché è più leggermente più chiaro quello di Gianni, rimane più la voce più chiara, più corposa. Perché io l'ho cambiato la capsula, gli ho messo di quelle capsule verdi, quelle di citofono, di telefono, cosa ne so, ce l'avevo nella scatola dove tengo tutti i pezzi del baracchino, ho preso e l'ho cambiata, capito? Perché l'altra capsula che era difettosa, si abbassava la radio. E gli ho messo quella, e questa qua si addice molto quel tipo di capsula di... Ma è anche più chiara, fa meglio di quella di Luca. Quella di Luca è un po' troppo burutturosa e boh. Sì, ma Claudio, anche la tua c'ha quella con la cosa verde, io ho cambiato la capsula da quella verde, anche quella lì, avevo cambiato quella lì. Sì, già l'ho visto, non solo, c'ha la capsula bellissima, molto forte, poi c'ha il circuito che io ce l'ho a due, il tono a due, non è che ce l'ho, il micro della radio è al massimo. Però io ce l'ho a due, mica ce l'ho a 10 o a 8 o a 7, capito? Ce l'ho a due. Va bene, dai, che sto collegando, sto mettendo le lucette a LED su una radio che si sono fulminate, non ho capito perché, forse come eravamo dentro l'armadio. Va bene, dai, Gianni, riprendi, io rimango in quell'X. Ciao Gigetto. Bisogna metterci la resistenza, se no ti fatto voi. Non ha resistenza, ci vuole. Non ne uso LED, già, io ho le sue lampadine teoriche, capito? È il 140. C'ho le lampadine sue originali, non i bongo LED io. Ce li ho e le cambio. Quando si brucia la tolgo e la metto nuova. Ma era da tanto che non si bruciava, sicuramente a forza di spostarlo, fare, capito? Perché non c'ho più niente, quindi adesso l'ho tolto per usarlo. Vabbè, dai. Ci sentiamo, statemi bene, ciao. Ciao Claudio. Ciao. Ciao Ricca, ciao. Allora, Luca, secondo me, perché non è malvagia, è bella quella di Luca, solo è troppo spinta a forze di radio. Hai capito? La tua, Luca, è troppo spinta di radio, ecco perché fa questa differenza. Secondo me è troppo spinta di radio, c'è più Luca. No, io non mica mi offendo, ma tacciai a me, era solo giusto così. Ma sicuramente va meglio nel Typhoon questo microfono, perché a quanto ho detto spinge molto di più nel Typhoon. Sì, perché allora, in poche parole, non è che non è bella, spinge un po', e spinge troppo, e forse anche un po' di radio, o micchi troppo aperto anche della radio, capito? Spinge troppo la radio e non è, invece se tu ascolti quella di Gianni rimane proprio chiaro. Non è che è brutta, no, è bellissima, perché io ti avrei detto è bellissima, solo se tu me la metti a confronto ascoltando quella di Gianni c'ha quella tonalità più che piace di più, dai, a dire la verità, molto più chiara, e invece quella si sente che sta spingendo troppo, capito? Ma adesso con 3009 stai sì, io ce l'ho a 5 lui, così è a 7, 8, 9, così è a manetta a 10. Aspetta, mettilo a 8 a vedere. Guarda un po', adesso è a 8, 1, 2, 3, attenzione Gigino Vulcano, sono distante tutto il braccio, dai. Ma sai che mi sa che è meglio a 8 che anche abbassando, forse la sua è troppo. È abbassando. Mi sa che nella via di 8 è migliore, lo sai. Io non mi sento, non so dare un giudizio. Questo non te lo so dire. Dicono che è troppo alto, mi corri abbassando, li metto la 5. Sai cos'è Luca? Che io sono distante a ottava, loro che sono vicino a te forse hanno anche ragione. Io essendo più lontano ti sento, hai capito? Come a Claudio di giù di cosa, io non lo sento strappare, lo sento passo basso arrivare, però non lo sento strappare perché sono più lontano di voi. A voi vi arriva più forte, lo sentite strappare, invece io lo sento chiaro, però bassissimo, capito? E a voi già, secondo te è troppo alto? Cosa? No, a Gianni sto dicendo troppo alto è già. No, io lo capisco tranquillamente. Ma poi basta che abbassi il volume, non c'è problema. Anche se alto, abbassi il volume e ti sento più basso. Solo che a volte ci sono le persone basse e basse, uno tocca alzare, uno ammassare, quello lì che c'è, ma non è un problema, si può fare tranquillamente. L'ho sempre fatto, l'ho fatto e continuo a fare, non c'è problema. Ma non è troppo alto, io lo sento bene. Vabbè. Però è un ottimo baracchino, dai, sto facendo merenda, due patatine, una birretta mi sta bevendo, una bella fresca. Gianni, come mi ascolti adesso? Prova. 1, 2, 3, prova radio, come mi ascolti? Più chiaro, chiudo la ruggine. Più chiaro. Avanti, di nuovo, chiudo la ruggine, per Luca, vai. Sì, calma, Luca, non so se ne ho sì. Ho cambiato radio, adesso sto uscendo con il Sommercamp, sto uscendo PS660S, come mi ascolti? Benissimo, confermo, segnale 9.5, dai, la radio, Super 5, ti ascolto benissimo. Non so, guarda, io ho aumentato questo qua da così, ok, da 5 a 8. Non so se va meglio a 5 o va meglio a 8, visto che sei distante, più distante di Luigi. Va avanti, ca. Sì, capa, Luca, sì, adesso mi stai arrivando a Santiago, quasi Santiago 9, tu diciamo prima di Santiago 8 fisso, adesso stai arrivando a 9 la lancetta, diciamo questo Sommercamp è poco, anche poco generoso, diciamo, dalle segnali, diciamo, perché è tarato così, non l'ho mai toccato, sì, l'ho cambiato il baracchino io adesso, prima stavo usando la LAN 48, ma sicuramente lì c'è cosa che devo rivedere sicuramente sulla LAN 48, perché ovviamente bisogna abbassare di watt sicuramente, sì, perché 8 sono troppi, si riprendi. Si conferma, sto assaggiando un mezzo bicchiere di birra fresca. Sì, sì, infatti va benissimo, Cla. Rilancio a Luigi, vediamo un po', vai lui. Non so, Claudio, tu mi ascolti, dico, solo 4 watt io ho qua, Solo 4 watt, non so se ci arrivo lì a Campo, non so se mi ascolti con 4 watt, dammi conferma. È copiato, Claudio. Negativo, no, purtroppo non sono riuscito ad ascoltarlo, il suo passaggio, perché c'era uno in propagazione parlante, non sono riuscito a sentirlo, ma da dove sta modulando, non so neanche se mi arriva lui, riprendi. Lui è ottavo, avanti lui. Claudio. Sì, dimmi, Claudio, buonasera. Cosa è successo alla 48? Non lo so, Claudio, mi sta saturando quando mette il lineare, non lo so, diciamo, ieri notte l'ha trovato Papo e gli ha chiesto un controllo a Gianni e sta parlando benissimo. Stasera l'ho provato, però non riesco a non farlo saturare, Claudio. L'abbiamo passato il preamplificatore da dentro per vedere se usciva bene con il lineare, diciamo, normale esce bene, però io lo voglio, diciamo, con il lineare, mettere per spingere qualcosina in più. Non ci riesco a farlo girare bene con il lineare perché satura, riprendi. Se te l'ho già detto perché satura, perché quella radio, proprio Gigi Vulcano che è qua, quella era 48, io l'ho portato a 8 watt, modulati 10 watt. Allora, siccome io non mi ricordo adesso che cosa mi aveva fatto toccare Gigi, ma c'è lui qua, se tu apri quella radio e porti i watt a 4 watt, 4 watt, 3 watt e mezzo, 4, come è dalla casa, la radio ti porta benissimo il lineare. Siccome il lineare non li attaccavo, anche perché non ne usavo mai di quello, ok, allora Gigi, che è un esperto degli Alan 48, me l'ha fatto portare a 8 watt, ok, ma se tu lo riporti a 4, ti porta benissimo il lineare. Se tu lo usi a 10 watt, il lineare te lo fa saturare, che sia trisistorizzato, che sia a valvole, perché entrano troppi watt, hai capito? Devi portare i watt, il trimmer, dei watt a 4 watt. Sì, capa, sì, infatti io voglio fare così, diciamo, non scenderlo a 4, almeno a 5, d'acqua, lo guardo con wattmetro, perché l'ho fatto questo lavoretto anche al Sommercamp che ti ho usato adesso, siccome questo le dava 10 fissi e 13 modulati di watt, questa che sto usando, e l'abbiamo passata a 8, l'abbiamo, perché quando andavo a farlo entrare sul lineare andavo in protezione la radio e non mi faceva trasmettere, capa, non pilotavo il lineare, allora capo me l'ha passata, diciamo di 2 watt, adesso sta uscendo con 8, me ne dà 10 modulati, ho visto va più che bene, ed entrare con lineare, sto parlando anche adesso, è una figata, io voglio fare entrare al 48, così riprendi. Sì, ma lo devi portare a 4 watt, né a 5 né a 6, 4 watt, tu con 4 watt modulati 5 e 6, sei a posto, quella radio ha 8 watt ad importante mutta. Ok, è quasi 11 modulati, quindi sono troppi per un lineare. La devi portare a 4 watt, perché l'ho fatta subito appena comprata, ma l'ha fatta fare Gigi, perché io non me ne intendo di queste cose. Gigi ha detto, apri lì, guarda che c'è un trimmerino, bim bum bam, io ho preso e l'ho aumentato. E tu devi fare la stessa cosa, riportarlo. Se tu infatti vai a vedere quel trimmerino, è al massimo. Prima era, mi sembra, neanche a metà, adesso è al massimo. Va bene, quello tu lo devi portare a 4 watt col wattmetro. E stai pur certo che il lineare te lo porta, che minchia il connava, capito? Sì, capo, la simpatia me la torna, ma può che se la passassa rialzando la moda, perché abbiamo cambiato contratto, diciamo, col telefono, perché siamo 2 settimane senza il telefono, è andato a riportarmi il modem, che ha fatto il contratto con un'altra, diciamo, compagnia. Sì, quando viene glielo faccio fare, tanto è su 2 fesserie da fare, ma proprio fa 2 secondi quella roba, perché se ne intende lui, glielo faccio fare. No, perché lo voglio fare anche bene quel paracchino, quella roba, mi voglio mettere anche la scheda per i 120 canali, giusto per avere il 45 anche su quella, diciamo, perché mi piace molto quella, capito, ripeto. Beh, fai così come ti sto dicendo io, se hai qualche problema chiedi a Gigi e te lo fai fare da Gigi. Ok, avanti Gigi Vulcano, riprendi tu e fai girare, io continuo, scusate l'intromissione. Sì, ma secondo me dovrebbe, 48 dovrebbe funzionare, vuol dire che non combina bene con quel lineare, non lo so. Se no, perché non è tirato quello lì, non è tirato, è stato toccato solo il trim e basta. Se no c'è altre cose, arriva anche a picchi di 18 watt, arriva anche a 18 watt quello lì. È stato toccato solamente il minimo, questo l'ho detto, se no puoi dare fastidio perché ne togli le... È stato solamente girato, fatta ritornare appena indietro le cose, il trimino, e lui torna sui 4 watt, sui 3 watt, capito? Capa, Gigi, buonasera, sì, diciamo, stasera, diciamo, ti ascolto un po' passino, diciamo, mi arrivi a Santiago, sì, comunque riesco a tirarti fuori, diciamo, sì. Sì, se devo fare, diciamo, questo lavoro, ho provato in tanti modi, diciamo, non farlo saturare, ma non ci sono mai riuscito, diciamo, perché mi piace molto l'Ave 48, come di Guarachino, mi è sempre piaciuto, diciamo, averne uno, con Claudio abbiamo fatto uno scambio, gli ho dato un po', ma la stazione base c'è Babbo, gli ho dato perché sono di Babbo i Guarachini, mi ha dato l'Ave 48 lui, e niente, sì, lo voglio, diciamo, attaccare con il lineare, diciamo, voglio farle pilotare il lineare, diciamo, per uscire un pochettino più alto di parte, sì, e che non sa, dove sì, però ovviamente devo fare questo lavoro che mi state dicendo, si riprendi, buonasera. È positivo, là, positivo, no, solo che a volte, perché sono tante cosine che bisogna... Vabbè, io con il lineare non lo so fare, però bisogna sempre allinearlo con il lineare, capito? Se lo so fare questi lavori, se io non ho allineato il coso con il vante, le cose non ci riesco, non è convinto diciamo, con il lineare. Però quello lì dovrebbe uscire una bomboletta con il lineare se allineato, perché certi cosi li fanno un passaggio di un ingresso di... perché loro hanno un ingresso basso, però glielo fanno di 5 watt, mi pare, se non lo ricordo, lineare, però glielo fanno da 10, che può entrare 10 watt, capito, che cambiano qualche resistenza, qualcosa all'interno del lineare, e con questi ingressi di 10 watt tu ti peotta pure un baracchino che arriva anche a 10 watt, capito, e poi ad operare 10 watt come ce l'aveva una volta Claudio in corso, nella macchina che ho lavorato io, quello usciva più di 10 watt, eppure con lineare andava e pompava, e come che pompava. E vabbè, il mio era modificato Gigi, quindi la spinta è quella, ma quello lì è normale, è originale, io ne ho ancora un altro. Abbiamo fatto cambio con questo, io lui mi ha dato il Polmar base e io ho dato l'Alan 48, però gli ho detto guarda con l'Alan 48, hai fatto e sollevati, se devi usare qualche lineare riabbassali e basta, non è stata fatta nessuna modifica a quella radio, è tutto a posto, capito? Va bene, dai, io faccio girare e rimango in ascolto. Avanti, Gianni Doppio, riprendi. C'era anche Riccardino, non si è lasciato dietro. Riccardino, ci sei ancora? Luca, che sta? Sì, qui sono qua. Qua è buona la birra fresca, Qua c'è caldo. Una però, Non più di una. Ieri sono andato a fare venerdì, sabato e domenica, cavolo. E oggi, anche oggi. Scusate, mi sono allontanato un attimo. Sì, da qui sopra, il 120 si può mettere, però devi farlo a una persona che proprio lo sa fare, capito? Che sa fare quei lavori lì, capito? A Tartare non lo so se c'è qualcuno che lo sa fare, fare vabbè, io so chi li fa, perché sono anni e anni che li chiede. Il passato che li facevo, capito? Sono amici che fanno quei lavori lì. C'era una volta che era morto con anima, quello di Serralba, Giancarlo, quello che faceva tutti i lavori qua nelle Sassari e altri. Però adesso ce ne sono anche altri, ce n'è una Inglese, ce n'è uno a Piroli, che è amico anche di Claudio, quello lo fa i 120 canali, ed è bravo, perché secondo me poi non si va bene, capito? Perché i 120 canali bisogna saperli fare bene, dai. Non lo so se Fabrizio, forse Fabrizio, non lo so se, scusate Fabrizio che riesce, non lo so questo, penso, e forse non mi ascolta, non sono troppo bassissimo. Oh, ricordi che sei? Sì, ci sono, sono qui. Ma hai cambiato radio, questa è ancora più bella, o sempre la stessa, più chiara. No, questa è un'altra, sto usando un'altra radio, un altro microfono. Bella radio, rispetto a quella di prima, non lo so se è un microfono, questa è troppo bella. Ok, grazie, sono contento, sì, adesso, come ho detto, sto usando altro. È una coppietta un po' strana, però se funziona bene, ok. Confermo, è molto meglio questa dell'altra. Visto, noi abbiamo le orecchie grandi e ascoltiamo bene. E ci credo, siete tutti orecchi di porco, è per quello. Claudio, c'è ancora? Claudio, ci sei? Gianni, neanche tu ci sei? E già nel doppio lui c'era il 48 modificato, quello c'ha anche il doppio modulatore per il Claudio 10, quello è bello, quello era il mio personaggio, quello certo, quello bomba, quello io facevo uscire anche 500-600 watt sul camion, quello non tanto, E capa, mi sono dimenticato, c'è anche Muros avanti. Sì, quello, Riccardo, sì, diciamo questo canale, diciamo, è un pochettino disturbato, diciamo, c'è uno che lo sento parlando basso sotto e che ricopre quando parlate ogni tanto, quindi mi arriva fortissimo, diciamo, Santiago Nuovo e questo, non riesco a capire nulla di quello che dite, diciamo, sì, e riprendi. Comunque va bene questa modulazione dalla tua parte? Sopra in banda laterale, non riesco a capire molto bene quello che dite, diciamo, adesso non riesco neanche a ascoltare al dischi più quello che dice, perché non si sente niente, diciamo, mi arrivano due portanti che sono, diciamo, di gente che sta parlando in propagazione in banda laterale, perché non sono neanche in AM, capito? Non riesco a ascoltare bene quello che state dicendo, ripeti. K, va bene, comunque stai arrivando a bomba, Cla. Sì, K, ricordi, sì, questo io adesso ho cambiato radio, perché la 48 lo devo rivedere, già tutte le serie da fare, quando viene da nuovo le faccio fare, così esce bene anche quello, no, perché ci tengo a farlo, perché quello, insomma, che spinga bene con il lineare, che non sa, dove diciamo, perché quello voglio fare bene, tutto con la scheda 120 canali, giusto per averlo perfetto, diciamo, sia sotto usando il Sommercamp, S660S, sì, quello che deve andare perché arriva bene, sì, quindi per girare. Ok, club, va bene, no, già mi piace questa modulazione, questo apparato, va bene, facciamo riandare avanti Gigi e scusatemi, arrivo subito, un secondino. Vedi un po' se mi ascolti adesso, ho cambiato radio, Claudio, mi ascolti adesso. Ma cosa ti ascolta, Claudio Lamulos, la sentita Luigi. Negativo, Luca, no, non riesco a sentire più a neanche a Gigi, non riesco a sentire perché ci sono due che stanno parlando, in SM, non so, in SSP, diciamo, in banda laterale, non riesco a sentire niente perché mi arrivano Santiago Nove, perché portanti, e stanno parlando, ma non capisco neanche quello che stanno dicendo, questi che stanno parlando, capito? Ma quando parlate vi copre, quando parlano quelli bassi, Riccardino, e a te riesco a tirarvi fuori, ma quelli bassi non riesco a sentire nulla, più ripeti. Ho capito, lui non ti sente, forse se l'hai copiato. ho capito, dai, vedi un po', adesso non mi ascolti, Claudio, vedi un po' se mi ascolti adesso, se no ci butto tutto dalla finestra, eh. Ti piace il 48? Questo è il 48, capisci? Questo è l'ARA 48. Positivo, dai, qua c'è anche il doppio modulatore dentro, a parte 120 c'è anche il doppio modulatore, c'è tutto qua dentro. Sì, capa, già si sente, infatti, sì, è una bomba spettacolare, veramente. Sono il gemello più o meno di quello che c'ha Gianni, che ce l'avevo dato io, ne avevo due, più di due ne avevo. Non so se l'hai visto quello che ha messo in vendita Gianni, l'hai visto? Gianni doppio RU. No, io l'ho visto in Facebook, l'ha messo comprovendo, cosa l'ha messo? Boh, mi sembra che l'ha messo lì, l'ho visto ieri io, quell'apparato lì. Poi, no, ah, vabbè, Claudio non ce l'ha neanche quelle foto lì, perché no, non ce le ha, dai. Se no, vabbè, sì, Claudio, a te te l'ho dato qualcuno, ma... ne ho dato di baracchino, ti sto dicendo, ne ho dato a Barra Agricola chissà quanto di quei 48, ne ho venduto a Olbia, ne ho dato parecchio, ne ho fatto girare parecchio di quei 48, uno addirittura ce l'aveva Torre Spaccatutto, l'avevo dato a Valte, per Saturnecco, l'avevo dato in cambio di Saturnecco uno. In due maniere, per me, uno col doppio modulatore e uno senza doppio modulatore. L'ultimo che hai tolto dal camion l'hai dato a Gianni, il penultimo l'avevi dato a me. Quello che avevo dato che mettevi in macchina, quello c'era il doppio modulatore, attenzione, quello era col doppio modulatore, non era senza, è quello che c'avevi in macchina tu. Via, quello lì che c'avevo in macchina io, che mi prendevano per te, quello lo stesso era il tuo ed era col doppio modulatore. Poi me ne hai dato uno modificato senza doppio modulatore ed è quello che c'ha già nel dischetto. Ma no, anche quello c'è il doppio modulatore, c'ha già nel dischetto, quello che c'ha già nel dischetto adesso, che quello lì c'ha il doppio modulatore lo stesso, tranquillo, era schiumato perché era fatto la Lumaccone in Sicilia, però c'è anche quello, c'è quello spingeva lo stesso, stai scherzando, c'è il doppio modulatore anche quello lì. E allora anche quello c'è il doppio modulatore, due me ne ha dato a me, tutte e due. Il terzo poi l'hai dato a Gianni, perché ne hai tolto due, poi ti avevi messo l'87, non so cosa avevi fatto, comunque uno l'hai dato a Gianni, e due l'hai dato a me, e uno ce l'ha già nel dischetto ancora. Vabbè, dai, che sto facendo questo lavoretto qua, questa radio, lavoretto da niente, però sto dando un po' di senso, che era sempre spenta, dai. Ok, riprendi Riccardino, io rimango in ascolto, scusate. Ok, va bene, Cla, comunque a te cosa ti sembra questa radio? Va bene, se non te l'avrei detto già, stai uscendo benissimo, la grande. Ok, grazie. A me non mi dici nulla, Riccardo, come sto uscendo, ma io vado a fondo scala qua, non è che ci sono stazionarie, no? Va tutto a fondo scala. No, sta andando benissimo, non ti posso dare un segnale perché uno smitter un po' avaro che non è tra i migliori smitter del mondo, e comunque è buona, sì, sicuramente è buono il segnale e la radio. È positivo, perché va a fondo scala, mi sembra strano, cavolo. No, va bene, c'è 920 Radio 5 qua, lascia tutto così. Ma lo smite sbatte, la lancetta sbatte a fondo scala quando schiaccio la portante. Sì, ma è un po' di umidità nell'antenna, adesso non è stazionato. Ma lo controllo subito, per sull'altra radio che ci ho attaccato il Rosmet. Che controllo le stazioni sull'altra radio, Riccardi. Cosa, Gigi? Non ho capito. Controllo le stazioni sull'altra radio, perché sbatte la lancetta, non ho capito perché, aspetta che controllo sull'altra radio che ce l'ho collegata al Rosmet. Buonasera. Oggi, buonasera, aspetta che controllo la volta che siamo stazionari qua. No, qua stanno benissimo. 9:30 più o meno. Comunque, saluti Eugenio, se ho capito bene che era lui.